la prigione. Ma è che ha toccato questa cosa? Vabbè, ma magari lo sai, qualche spinetta come ha spostato il cambio, qualche cosa, magari se tu cadda magari non fa più il contatto. Adesso gli ha attaccato il computer a vedere la diagnosi, che così c'è di errore, e poi guarda cosa è. No, è che ha sbagliato qualche spinetta, attaccante. No, perché ha detto che più o meno a livello di cavetteria di elettrico non ha attaccato quasi nulla. Ha solo smontato quello che c'era da smontare lì, e poi ha fatto il lavoro senza neanche toglierlo il cambio, l'hai toccato un tanto che baciava a bappù di Travagliani, e da buio si è trovato il piacere. Allora che maradossi, ma non è come, non è che muore che vale sapere tra pettine, come se una, appena che zappa il motore, che ha toccato a che filo, no? E infatti la mia sentenza sia che magari ha piccato qualche filo, ma ha detto che non ho venuto a ribiccarlo, si fanno che si guaine, come si dice, di quelle nere, di come si viene nere di esercizi, che si gavi, quindi non penso che si sia fasciato qualche cosa. Ma il motore come va a flettere, può tirare qualcosa? Ma magari da me tu vuoi dare un sempetto, un brusco. Ma che quando tu ne dici un giappo e le zappe motore ne ti rende allora uno o due, magari il motore è aperto e chi ne ha una tira due a che cosa, ma va se dici un gabbo me va finché la sabbozzalla di tutti non è soddisfatto, a chi lavoro già lo sa fare che ha studiato burba e cose. Ora di tu è una meraviglia gatta, di tu non è che ne aggiungava più cosa, ma forse pure qualche sensore come hai detto tu, come magari ha portato il motore, come si è toccato il giambo e via dicendo, ma tu vabbè, io, se no già non ha di gorri, babbo ha detto. Vabbè, ma la macchina si gira per male che non accelera già 90. Andava per cosa magari da voi in casa andare a tutti, rompere il cazzo, non è così, no, deve essere, la macchina deve essere perfetta. Deve essere perfetta, guarda che cosa che non anda. E infatti, ma adesso già lo sai, aveva detto l'attacca al computer e ha detto che la boreggia la centralina, buh. Perché è probabile adesso che come ha attaccato la batteria e tutto, la centralina ci è andata in stand-by, quindi... Probabile? Ma la macchina è? È una Renault Megane Station Wagon 1500 DCI. Mamma mia! Ma no, non è una macchina complicata, mi è che magari c'hanno l'elettronica, per esempio... La mia aveva l'elettronica, aveva una Siemens, il cambio è Bosch, e quindi magari cambiano determinati parametri nel sensore giri-motore, nel sensore pedale-frizione, quindi tutti gli attacchi così, quindi è probabile che magari voglia il sensore pedale-frizione a chi, come si chiede la frasata, la frizione, i bandini di regia l'errore, quindi... Boh, è un casino che si macchine, mamma mia, quando non da voi non è mai fatto che non usare, è un casino niente. E allora la Giuditto Biattari la 127 a Roma con un cacciavite gira la garmoreggia e pacchia tutto sul gas. Vero. Ciao già, buonasera. Buonasera a tutti. Buonasera a Doppio Room, un saluto a Cucciolo. A Tyson, grazie, è qua vicino a me. E allora che si dice? State parlando di macchine, ti ha preso la macchina nuova, sai? Oh, magari è una giura che va giù, la Megane, popolizzata, la 127 e la 500 Abarth, 180 cavalli SS, un razzetto, Antonio l'ha visto. Guardi che la migliore che sta macchina, alla Pat Furious, e potessi io fumare gomme. E allora, avete parlato in due comunque. Oh Gianni, mia mamma la guida a me, l'ho comprata per me ma ripeti non funziona. E allora la usa mamma a fare la spesa e a usarla quando deve uscire a fare la spesa. E poi che togami e tutti dicono, ah, questa macchina signora, complimenti, complimenti, e gli dai di mio figlio. Ebbene, è una macchina sportiva. E il modello che c'ha le marmitte a crappo, vici sedili sportivi, cerchi Monte Carlo concavi, bella M, comprata nuova nuova in concessionario all'Auto A. E da quanto ce l'hai? E adesso ce l'ho 5 anni a fare, perché va più la scimmia di questa macchina, come si dice, il Facebook, la TV, la televisione, e poi mi è sempre piaciuta, e quindi ho comprato la versione 70° anniversario, che era la seconda versione della 500 Abarth SS, che è 595, si grava. E come la mia 500? La mia 595 Gianni. Oh, questa è nuova, di nuovo un tipo. Toga, Emmi, adatto e toga, va un pulsante, sassioneggia nei mai misti, si apre la valvola e fa di bom bom bom bom bom bom bom. Tutta la carriera rimbomba. Vabbè, dai. Io ti auguro di poterla guidare al più presto. Sì, speriamo, dai, io già non mi abbatto, a chi tanto... Prima di abbattermi io vi accaggi il dottore che mi ha operato e si chiude un figlio a terra, fracassato che ragazzo. È vero, Antu? Cosa vuoi fare? Ma poi dai, ancora abbattente, sì. Sì che ce l'ho, ma non lo so così è bloccata, che l'Inps, lo sai come c'è l'Inps? Non devi capire. Chissà macchina a due, chissà macchina a bomba. Aspetta, se la dai a me potresti un fumo, mi devi fare. Già lo so, già, ma è meglio la nostra battaglia che si macchina a chi da voi come te, un ciao quando è elaborato. Da voi tocca a voi turbina lunga, frizione e tutte cose. Invece la razza originale, tranquilla. Mi ha dato l'acceleregine, che ci rubutò un sport, la buona 180 cavalli, a cui di 4 incrazzati, il rettilineo, sotto curva, come se la guidavo io, e sia tutto fuorviato. Da voi vari punti di rifreni, Brembo da 305, ma non a Ferrari i freni. Sono fatte bene quelle macchine, sono male viaggianti, ma sono buone, sono fatte bene. E allora, tanto non ve ne è più bisogno di trabattare, io mangio un trabattato da Megane sportiva, di faggio, era 127, la mia 127 va via 180, mi inquadra. E la motore va. Ho detto la mia 127 con il motore Abarth, 180 va via inquadra. Ah, motore Abarth, la mia, io avevo 127 lo stesso, primo tipo. Mi faceva 160. Eia, no, la mia c'è il motore del 112 Abarth, prima serie, con i pistoni da 77,2, quindi è 70 cappi. Poi c'è il carburatore doppio corpo, i collettori in acciaio, la marmitta, così da la marmitta, una miglia e miglia la marmitta, canna dritta lucida. Bella sola. Modificare. E Arosè a me un biasiano figosi e quindi io. Poi avevo anche i cerchi mille miglia mai primi e li ho fatti grigi e la stella dorata in mezzo. Mi hanno fatto i mobili, così anche i baracchini ti piace modificare. Ma a livello estetico però, perché a livello di elettronica, elettronica io non ne comprendo un accidente, invece la nuvoletta di Guido di Xi Jinping invece a me. Cavagala, vabbè, e cosa mi va? Elettronica non so tutti che ne capiscono. Poi elettronica zero, ma la meccanica mi piaceva di brutto. Poi se c'era qualche inconveniente mi soffermavo, mi fumavo una sigaretta e la buia ci ha fatto la soluzione. testa e psichica nuda, eh. E fatti a tutto bello, perfetto, tutto Giulia. E la perfetta, ce l'hai ancora o no? Allora non ce l'ho, ne ho una rossa e una verde di perfetta. Voglio sono preso il deserto e comprarmi, sì. Come c'è un amico mio, il pick up a 125. No, le mie sono due special, sono 130, corsa alta, motore primavera, carburatore 19, marmitta pulini e campana a denti dritti e poco bruciano. Un elicottero mare da che a tratto. Da qui di me, ma le 15.30 c'è remoto a restare a te. E no, vedi, e più per pure un volano pinasco da 1,2 kg. E girano bene, mi. Sono targati, assicurati, e Davide ogni tanto fa un giro, fanno le mani ferme. E niente. Però già ce l'ho anche il motore originale. Ma questo è più bello, solo che le vibrazioni fanno spaccare il telaio. Le vespe avevano quel difetto lì, che se ne truccavi le vibrazioni per gli spaccavano il telaio. Sì, è vero, perché la prima che ho avuto gli ho dovuto fare il rinforzo con quel filo da 5 mm mi pare, no 5 mm, 4 mm. E infatti vogliono rinforzarsi quando sono truccate così. Si taglia anche dove c'è il numero di matricola lì. E vabbè, ma adesso con il coso nuovo c'hanno il libretto come la macchina e la taglia quadrata dietro tipo la 125 primavera. Ho capito, a me mi piaceva, non ho fatto SS, te lo ricordo. Eia, bella redda chi sta era. Quella era 96 a corsa alta, mi. Sì, aveva il manubrietto piccolino. Ehi, aveva il manubrietto rotondo con i manici più stretti. Ah, bei tempi, quando le truccavamo a sacro cuore, gli mettevamo un cartone, ecco, ricava, le cambiavamo campana, tutto va. Tu quella, chi si danno a mente vedi? Mia gazzino, sempre che si giavi sotto la sella, 10 a tubo, 17 giavi di gandira, gacche mattedutto, e gacche 3 o 4 giavetti sempre, non si sabbia mai. Lo straccetto. Viaggiavano bene, già viaggiavano bene, ma anche il ciao e il sì già viaggiava bene, si era fatto bene. Tu pensa che viene da una sassere che non per favoraggio, giungevano le mitraglie che gli parava una dopo di l'altra. E va via la vespa, no, ha detto che la via ci ha fatto un nido con le uova, le ha messe dove si mettono gli attrezzi della vespa, se ne era dimenticato, una dice cip cip cip cip, e la nina dei bisogni, da un calore della moto, e ne ha fatto. Chi sei come te chi tu di sosso? Che una volta via Rubaracino, si chiamava Falco Rosso, ha detto che è entrato da moglie a fa poi a fa pattelli, e tutta l'ora è inteso il sonno della Dirrenia. Siccome è stata drugata, ha detto che si è accolto drugata la Dirrenia e ve l'ha ciancunato, e se è c'era drugata Pitano, e ha detto che era l'assicurazione. Addirittura. Francia ruggiavano in su. Come te ruggiavano? Francia, Francia. Cioè ferro da stiro. La faccia da noi era il ferro da stiro. Da noi c'era peli di braccia. Era uno che giocava a pallone, ma non per lavoro giocava a peli di braccia, peli di braccia. Sì, così fanno da stiro in italiano. Il dialetto era Francia, cazzo. E poi mi ravvauraggio. Ha detto che lui quando era bambino si è avvelicciato la vespa con un compressore, però sicuramente non aveva la bicicletta ma avvelicciato. Stanno ha detto che ha fatto un imbuto con una retina e come si ha fatto il motore compressore, ha detto che era prima di spruzzare aveva fatto tutta l'altra e l'aveva cadere da reggio della moto. Però ce l'ho. Invece, cosa? Pitraglia mi ha raccontato che ha fatto una curva a scala di gioca, è caduto con la moto, cazzo gli ha fatto un fucile, dove la cosa vera, un tesoro. Chi sei come te che tu gassiatore che ha detto che ha figliato un cazzo di grumiglio e come ti dà il ha detto ha cominciato a smuovere e ha detto che ha arrangiato 2 kg di Monza. Vabbè, i cacciatori poi sono particolari, tra pescatori e cacciatori non sapete chi scegliere. Questo qui che ti ha detto in un bar, il mar sport, ha davanti pescatori, cacciatori. Si ha detto, cazzo, hanno umiliato un grongo, un gas era lungo 3 metri. Poi ha un cambio, oggi quanto ha pesato, 6,8 kg. E questo qui, cazzo, se morisse io, ha giubilato la Pranizzi, che lui non mi ha visto la canteravanna. Non mi avevo preoccupato in 3D a bagnarla, gli esagerato, e cado tu, accorci un grongo, e io faccio il rubis della Pranizzi. Troppo forti so quando fate le vostre raccolte, da voi ti non raccontano che fai in avvero, Sono convinto di quello che dicono, a volte sono talmente ballisti, che si convincono quello che dicono è vero. Oh, ciccio! Ci sono da buccare ai puntini, a Romanco siete tutti ridendo. Ehi, altro riprendi. Grappa, a me che è tanto Manuele. Ciao Manuele, buonasera. Tu, buonasera, ciao Gianni, buonasera anche all'altro amico di Sorso, che lo sento più mio. Ciao. Grappa. Già, le pietre ancora ci sono. Boh, penso di sì, se tu non te ne hai prese ci sono ancora lì. Ah, no, già per qua volevo passare oggi, solo che si è fatto tardi. Ho dovuto portare a mio cognato a fare una visita, si è fatto tardi e non mi sono più passato. Sì, ma sai che tu guardi nell'aiuolo, c'è sto albero. Come le maglia? E quella via che risulta di fronte, come si dice, a quelli che vendono dietro a quelli della Mondetta. La viola qual è? Quella di fronte alla pizzeria, dici? Allora, la via, non mi ricordo che via sia, è quella via che c'è dietro invece di salire per andare all'autoparco c'è quella via prima. Quella via prima entri dentro, il terzo albero c'è il regalino. Dove c'è il coso, l'assicuratore, via, ma per salire più su dello stadio dei Pini. Praticamente dove c'è il Marchico, ce l'è presente, c'è di lì quella traversa, la prima traversa che trovi sulla sinistra, prendi quella traversa e lì. Ah sì, allora dove c'è quel giardino, dove c'è il marciapiede, Marchico, sì, già lo so dove. Ma non è il Marchico, è quella traversa che c'è di fronte. Ho fatto un giro, se riesco mi faccio un giro, ma... Se ne vuoi, se passo io te ne prendo, e poi te ne do. Se riesci tu a passare, quella roccia grande quanto è lunga, quella che mi hai detto che è lunga? Sono 30 centimetri. E di larghezza? Non l'ho misurata, Manuel, non so, ti potrei dire fesserie, non lo so, lo devi vedere tu. Sì, vabbè, a occhio, ci sta nell'acquario, sì. Sì, è bella, è tutta lavorata, E in più ci sono pietre di stintino, che quindi ti puoi fare a capanna, le metti a capanna così, oppure le puoi mettere anche da sole, fanno bella figura. Se in casa ti viene bene, prendile, poi me lo dici e passo le prendo subito. Se ci passo, non è che io passo tutti i giorni. Sono andato a prendermi le buste al comune e le ho viste, capito? Vabbè, io ti ho detto se passi, no, non ti ho detto di andare. Io l'altro giorno stavo per prendere, poi ho detto, poi se non le vuole desiderare. No, le metto nel mobile di là, c'è nel mobile dell'acquario, le metto. Bella, la luce è tutta lavorata, Il caso è se mi capita, perché sono interessato a prendere un acquario più grande, adesso vediamo. Operativi! Avanti, Sampì, avanti! Eia! Quindi tutto a posto, tempo buono, oia, ne vedi poco, ieri domani si cala la risacca, ieri vendi molti bucconi e pastelli, uia, coro mio. E il barbaccio che va a fare i bucconi, non so. Di Buccone però, questi ragazzi giusti in tunnare in fredda di fugo, dove c'è la spiaggia delle pietre. Vabbè, anche lì a Porto Torres, Balaie, zona limitrofe, però se non so che ci sia coso a Montiborro, a che si rubi. Quando andavo a fare pesca su barca era una decina, quindi una quindicina li prendevo. Quindi grazie. Già sono buono, buona bubini. E poi fai un pinzimonio con una scudellina di olio, sale e pepe, anche due gocce di limone, e sono micidiati. E sono al dente, sono un po' callosi. Avanti, anche. Cappa, ti viene in bagno, vero? Comunque sia, sto pensando di prendermi il vettore 125. Già è bello, che se è bello a passeggiare il vettore micidiale, rilassante, e te lo guardi anche bene. Adesso che fai, voglio fare? Voglio fare a 125, poi metterli invece a 180. Ma è impossibile! Ma già c'è il Vespone, cos'è, quello lì, il TX 180-200 mi pare che è. C'è 125 e 200 mi pare, 180. Sì, ma non lo posso guidare. Non faccio la patente. 125 sì, ma 180, cioè, se mi dici di più no. Invece io però 125 le posso rimembo con i betti. E voi se vanno la via di passate per la moto, mi amico. A che tanto da voi l'intressi è quasi brutto, invece originale così tu ha una vita e non perde mai la valuta. Li vuoi pure pure le cose, non ti dite? Il DR che tengono un bel. I DR sono buoni, sono di potenza, diciamo, da. È un buon gruppo termico, cilindro e pistone DR. Ah, io ce li ho nella moto, una bomba. In 3 anni non ho mai fatto motore. Vabbè che ci sto attento, uso l'olio buono e cose, non è drago io bombetta. Io uso il coso, il Power 1 Racing, lo uso il KTS Bardal, qualche volta qualche altro, ma soprattutto uso quelli. Quello lì, quello è buono, il Bardal che è sintetico, è buono, dice, se no anche il cazzo già c'è quello sintetico buono, però se magari fa di Viago quasi un gastro. Il Power 1 Racing, quando metti quello la moto comincia a tirare come un coso, una dannata. Eia, no, già sono gruppi termici, diciamo, buoni. Il DR, quello Evolution, è migliore dell'Olympia. Molto migliore, più durativo. Eia, se no per i buoni mulini e noi bagli. Pollini corri troppo, durano di manco. Ma secondo come lo usi tu già vanno bene, tanto non la devi stressare, non devi fare due vento. Molte volte io ci ho fatto strada con quella moto, ci ho comprato pure a Badesi, vabbè che è liquido la mia. No, ma se la usi bene vai da qualsiasi parte. Anzi, un amico mio quando era bittino addirittura siamo parati a Santa Teresa, certo che io va sicurezza del Taruzano, aveva motore di scorta, ciao. Un motore di scorta? E allora, a dite fazia prima, ci ammalo motore, ciao, e non caccia a me di ginger che so. Ma guarda che se la usi bene la moto, non è, sono incazzati. A chi ti credi, 2-4 tempi, ogni tanto c'è un po' più di strada, ma ogni tanto di mullarmi pure, chi deve farlo respirare il motore? Cioè, anche la macchina si cura di, poi dopo la devi far respirare un pochino, non è facile tutto, cioè, se c'è sempre tutto motore per un bel po', anche la macchina gli fa male, non ti credi che... Ma è infatti, ma infatti quando tratti la moto la storia è sempre chiusa. E quindi una cassata in rettilineo e la bui molli e la usi normale, rilassata. E se non è sempre a pistone in ferro. Cosa c'è, Gabriele? Cosa c'è? Io volevo fare poi mollo, la faccio lì e andare. Cioè, no, non so, cazzo, così faccio il tutto. A te già, e te a tipo Gairoli, sempre a tutto fulgace, ogni andato tale. Cosa è pericoloso? Chi si è mancati chi su Gairoli che guida la motocross? Da giù invece niente mancati, molto, venne uno a Sacrocuore, che stava in piedi sulla sella della Vespa e cambiava le marce col piede. Eia, già vi credo, perché a Sosso ce n'era un altro invece, che se ne parava di puta carriera, da sopra tutti, sdraiato sulla sella. Ma io non ne so più come ti vazia a fare nei negozini. E tutti, ma io sono quanti mancati. Lucifero, chiamava Lucifero che si chiamava Angelo, lo chiamava Lucifero, e praticamente cambiava le marce col piede, si metteva i piedi sulla moto, e le vede di tutti i colori, guidava coi piedi. Sono stato, man. Lui, gli sa rimasto la di capigliato prima. E sbagliando si impara. Sì, la prima di che ti cura che battura da me, però non parte più. E ribassa lui qua, no, anzi. Non ha mai bisogno di batturare, era talmente bravo che non cadeva. E allora era portato a guidare la moto ed era tutto uno, era tutta una bassona io. Io ti rivedere tutti i rigurori, ma già da muro a Vespa a retromarci. già pone molto mesi da fare andare a retromarci, la pone molto a trappola e pone molto a retromarci. E poi vuole la prigione e cammina all'indietro. Roba da fuga di gabbo, ragazzi. Sella German Car, Marmita SS, Super Sprint. Rapporti della Lambretta ci aveva, era la più veloce che c'era. Eia, no, già vera nei Cussini, pure visto di carriera per la via di Cussini. Va via la Marmita SS, va via, però lui aveva i rapporti delle marce che si rilassa e va via, gli ha detto che rimaneva appena la guasca più lunga di tutti i figli. Ma Edo giambava in pinnelli e ciambetti. Un fatto, ti sto dicendo, si vuole venire a Maidano che hanno fatto rigazzato. Sempre sughi erano, sempre sughi, non era ne avago ma se sono avari i bicini tutti con il telefonino e badinati con il bello. Poi, roba da fare a oggi, ui. Chiedevano tutte le vie, le patrulle, la polizia, scappavamo sentiti delle scuole, ui. Una buga. E Resandi veniva lì dicendo, mica me, fuggi! Ma te ne racconto una, venne da uno che si chiamava Paperino, a Sassari, era un vicino urbano, e passava sempre a Sacrocuore perché sapeva che facevano un po' di cazzate. Un giorno ferma questo amico mio che aveva appena ritirato la moto dalla fabbrica nuova, proprio di pacca. E ha detto che aveva la Marmita rumorosa, ne voleva fare il verbale. Mentre stava facendo il verbale, gli hanno staccato la candela e l'hanno messo un pezzo di bambino. E gli hanno detto, guardi, adesso non c'ho documenti. Diceva, però la seguo, mi porti verso casa sua, dove abita. E lui ha detto, là, e ha fatto tutti e due i diti, uno da una base, uno dall'altra, fa fermi, prendere in giro, no? La smetta di rompere, di prendere in giro. Ma allora vada che io la seguo, sì mi seguo, lui prende parte, io andavo in moto, non puniamo, poi era un bambino, non era il peso della gambina. certo, pure di gambo. Fino a lì va tu vanno a fare la buona in moto, se no ve ne abbigliavano. Ehi, quello che è partito, casa, mi segue, non lo sapeva. Roba di cazzate, non l'avevo detto, non chiamava mi sugi. Tu mi sugeriti, padre, io mi sugi, fatti vedere come ti prendi la moto. Fino a come si è pinnata, c'era bisogno che per le bambine da rete, noi non avevamo detto a buccia. I bambini hanno attaccato la scena. Mi si ingaggia subito. E noi invece a sesso abbiamo il vigile, l'abbiamo arrosto, va via la moto come se chissà dei poncerilli. Ui, ci andavamo fatto un po' che le cazzate che erano ragazzi. Ma se no quella cannuccia, torniamo in lago nella gomma della cannuccia e poi quando passiamo la signorina a sedere, aia! Tobi era, i tempi di prima erano di Tobi, c'era più armonia, un senso con amici, con agenti, avasso tutti quanti, vabbè che è un'altra era, quindi non potremmo fare un baragone. Quelle le pantane, prima ci sono le pantane, quelle la mia, te lo dico. Ma chi ci porta questo fondo d'acqua a fronte di mare che te lo dieggiare? E qualcuno quando aveva buono visto della circuzzetto, la buona e buona vista della circuzzetto, buono. E gli si battano così. Ne bigliavamo una che non passavano nelle macchine, rampavano in terra, chi si frenava e pensavano di aver preso la pantale tutto il rivento. Tyson, che c'è Tyson? A fammi va! No, ci sono le canne in calore. Per quello che è così, vuole scendere giù per fiaccare dove passano le canne. Non è ora ancora di andare giù. Si lamenta perché vuole scendere che ci sono le canne in calore. Poco fa è tutto un secchino che ha passato la canna. Ma no! Cazzo, diventa matto. Dopo ti tira una bacia all'asa, fiaccare una bacia all'asa ti tira quando vede se te lo do. Deve essere che intende rugosa, che il cane va nella sensibilità e quindi rimane sempre in allerta. Ma poverino, a che non ve la fai montare una? Tu me la dai, a parte che deve essere della stessa razza, non posso fare i cruci. Se non qui lei cosa fai? L'importante è che c'è la femmina. Sì, da voi nascono i cuccioli e non li volessi tirare, così è. Vedi, così no. A me la vediate che sei grosso. Ma cosa fa dire tante? Non so, a chi noi che abbiamo bisogno di cosa faremo? Dobbiamo cercare, qualche cagnolina pure noi. Ma come questo qua a negre, qua a cinesine? Vabbè, a Romacco non ti rompi le balle. Non guardano la razza. Vabbè, andi, vado magari qua e ti ritorno a casa, boh, tranquillo, beato. Chi si è visto, si è visto. Tu non conoscendo, non conosce nessuno, ma c'è a posto. Non è cosa, non è mai possibile. Oramai così, tanto no, se devi stare single, vai, non fai quello che devi fare, devi andare a casa, ti sei carregato, boh, e nessuno ti rompe il capo. Ma io non la faccio così, non mi è mai piaciuto, mai ci andrò con le prostitute anche perché mi fanno pena. Ma cosa bella, cosa bella. Ui, ma cambi sì. No, non sono in dolore, io cioè, uno va, cioè, ma cosa vuoi, spiegami. Tanto, oramai il mondo sta girando così, me. Te apri, te la scegli, vai, li fai lungare qua, ti ritorno a casa, tranquillo, ma non è che andi lì a dirlo. Un altro, giusto per divertirti un po', basta. Quella bella sensazione, e che tanto avere una donna a casa e fare una relazione seria, lo sai meglio di me, ci voglia gente, ci voglia una donna che sia donna veramente, che sia una persona seria, e tu te invece la vai, ti scarichi, te ne torni a casa, fai finta che hai fatto una spesa in più per questo mese. Finito, e nessuno si bisticcia, non bisogna, cos'era mai la mentalità, bisogna cambiarla, finito, non viene più anni 80, no. Quando sarà il momento giusto che troverai la donna giusta, che è veramente una femmina o una garriaccia, allora se ne può parlare. Oh, ma io sto parlando in generale, altro non hai compreso. In generale, non di te, io sto parlando in generale. Ma io non la penso come te, sinceramente. Io penso che chi va con le prostitute è proprio l'ultimo stadio, che non trova donne e cose. La penso così, poi io non ci sono mai andato e mai ci andrò, perché non la penso in quella maniera lì. Forse sarà arretrato, diventa l'Italia, non lo so. Tu vai bene andare in Thailandia, ci sono le donne negli strada, ti tirano, se non ci vuoi andare ti prendono a braccetto, ti tirano, ho visto filmato. Sì, quello che vuoi, sì, va bene, cosa c'è? Però io parlo di qua, i roghi, come ci sta sfasciando il mondo e cosa, eccetera eccetera. Aspetta che sto parlando, per come si sta evolvendo la situazione. Come di buca femmina in casa, cioè adesso se veramente merita una persona seria è molto, cosa c'è che non va? Che una persona seria, ok, va bene, perché io anche se devo solo anche sopra guardare il bambino, ma non è che posso arrivare a no? E quindi cosa faccio? Per il momento sto da solo, sto. Lavoro quello che devo lavorare, faccio quello che devo lavorare, e se mi devo fare una divertita non me la faccio lo stesso. Cioè, purtroppo io sto permanente qua a mia casa. No, non è che sto in giro, un weekend e cosa, perché devo seguire il bambino pure. E per me è già un problema, capito? Poi per come ci sono tutti i ragionamenti e cose, no, che è un casino. Cioè, ne ho conosciuto una e ho scoperto delle cose. Ma ne ho conosciuto un'altra, ho scoperto delle cose, che Dio mio santo. E allora cosa posso? Mi dice per il momento, me ne sono da solo, se veramente una persona merita di stare in una famiglia, si vedrà. Quando la Giovanna, non mi rompe le balle nessuno, ando, tiki tac, tu, muo a casa, perfetto, tranquillo, qua vivo, sereno. Allora, mi lascio tu, devo andare via, dai, riprendi San Piero, riprendi tu. Io vado, dai, che devo portare giù il cane. Ehi, a KK, alla vecchia, ciao già. Wow. San Piero, ci sei. Prossimine, se coincidono gli orari. Andate, buon proseguimento e buon tutto. Ecco, avanti il break. Buonasera a tutti, saluti a Gianni che sta andando via, ciao Antonio, ciao Sampei, ciao Gianni Sampei, Luca da questa parte, che ho ripiazzato un po' di cose. Ciao. Ma se la mamma lui. Ma sto uscendo pulito. Piuttosto volevo chiederti, fai conto che io ho il CB che esce sui 5 watt, no? Poi c'ho un accordatore di antenna automatico, no? E poi c'ho anche un piccolo lineare, piccolino da 30 watt. Ma la sequenza come li devo collegare? Cioè metto il CB, poi metto il lineare e poi metto l'accordatore, o come lo devo mettere? Allora mi ha messo i passaggi. Allora. L'amplificatore va sempre praticamente deve accordare, allora deve accordare anche l'amplificatore, deve accordare. Quindi secondo me deve fare, penso che sia amplificatore, accordatore, e poi penso che sia, ci vuole la distruzione che vada al baracchino, capito? Perché deve accordarlo. Quindi in fila cosa metto? Il baracchino per primo e poi? No, il baracchino no. Il baracchino, poi ci attacchi l'accordatore e dall'accordatore lo porti a allineare e da allineare attacchi all'antenna. Così mi sa che è. Adesso provo. Ciao attore, buonasera. Io non mi dà metà, va bene come tirare negozi. Sì, però io gli ho fatto un po' il contrario, ho fatto. Allora, devi pulire radio con lineare TX. Da voi ad un lineare attacchi. E all'antenna al TX accordatore e poi dall'accordatore l'antenna. Adesso sono diventate due versioni diverse. Cioè, all'antenna ci deve attaccare il lineare o l'accordatore? Cioè, il lineare va tra il CB e l'accordatore e ultimo l'antenna, oppure ci va CB, accordatore, lineare e antenna? Allora, fai l'uscita dal baracchino all'accordatore, dall'antenna lo prendi e lo porti, lo porti al lineare, dal lineare vai all'antenna. Hai compreso? Hai capito? Ma so che andato tu. Così c'è. Perché deve pure, giustamente pure dovrei accordare. Giustamente. Dobbiamo mettere il canto. Io c'ho un altro schema invece, Anzu. C'ho l'uscita della radio TX al TX lineare. Io c'ho un accordatore, non ne uso perché stazionare non ne ho, quindi ce l'ho un accordatore. Dimmi. Aspetta, ora sto provando quel microfono, come va a casa mia? Bene, una bomba. C'è un problema, lì che non riusciamo a capire perché innesca. Ma non è come ciò. Forse sono inserito, amplificato, tutto attaccato. Non capisco perché. Che cavo sta usando lui? Non ho capito. Che tipo di cavo usa? L'RG58 c'era. Oh, scuri mio. Guarda, non ho l'RG58, ma non penso sia quello. Non penso, perché ho provato anche altri microfoni che ho fatto io e fischiano tutti. Anche il MB4 fischia. Non so, cosa che a casa mia non fischia nulla. Questo è lo stesso microfono, è il suo. E poi non sta fischiando. Perfetto. Come il mio, uguale al mio. Stazionario a zero? Non è a stazionario, 1-1. Sono carri che a me servono per lavorare anche in HF. magari fa in dispersione, casa comincia a fischiare, invece a casa tua, siccome c'è un buonissimo capo, magari non ti dà, cosa c'è Gabriele? Non ti dà dispersione, sei tranquillo, ma quindi che una cosa del genere. Sì, devo fare prove. Sono impegnato, sono da Dio, la mia mamma, e poi prima lo facendo il corpo tutta la giornata, fatto, lo sono incasinato. Però poi gli dedico il tempo che ci vuole, ne vuole un punto, si rifà tutta la casa, perché non voglio togliere i piedi, non si riesce a cavarne i piedi, le fischia il microfono, e prendi il danno alla radio, e fanno un casino di esibito, e non riesco a capire dove è il problema. Sicuramente, ci sentiamo dopo, ok? Ok, dai. Se quindi ti accade la gruvetti, a vedere se si brucia i nonchi. Va bene, poi fai. Farò tutte le prove necessarie per togliere i piedi. Questo non c'è mai dubbio, perché ci tengo tantissimo un amico, voglio vado a mano, ma non riesco a cavarne bene un pubblico microfono. Ci sentiamo dopo, ciao. Ma è un microfono, no? Ma infatti non è un microfono, ciao, che funziona di voi, non avevo voluto. Va bene, a dopo. Appa. Avanti, ci sei ancora lui. Tu, controlla su Messenger, ti ho mandato quello schema a vedere se anda bene. Tu, visturai, vai andai su schema. Attenzione, canale 10, se c'è ancora qualcuno. Avanti. Luca, da questa parte. E io avanti, Luca. Ma cosa sta andando? Sta accordando, sì? Sì, sta accordando, però sono pulito ancora. Ora, guardami il segnale adesso in questo passaggio, e poi stacco e attacco la stufetta. Stufina, un giocattolino. Dimmi se mi hai registrato. Aspetta un attimo, non sai cosa devo abbassare. Se sei 9.30, non mi vuoi andare, aspetta. Ora, prova. Chiuso lo il coso. Ho chiuso. Come si chiama? Il refri game. Ho chiuso. Prova. Allora, così sto uscendo pulito con i 5 watt dell'Aran 78. Ora accendo la stufa. Prova. Allora, prova senza stufa. 1, 2, 3, prova. Basta. E mi sa che l'alimentatore non ce la fa. E infatti, ritorno nei picchi indietro. Devi comprare quell'alimentatore cinese, switching. No, c'ho quello dove ho attaccato il giocattolo nuovo, che è da 50 A, e cose ne posso attaccare tante. Quest'altro che c'avevo sul banco è da 10 A, ma non regge. No, alimentatore già ne ho, non devo comprare nulla, c'ho uno ZG da 5 A, c'ho quest'altro della OneTech da 10, ne ho uno da 30 e uno da 50, per cui devo solo scegliere quale attaccare. Quello da 30. Vabbè, ma per oggi non ha più gana, l'importante è che stia. Quando deve usare queste cose metti 30. 30 A ci vogliono, perché se no non ce la fa. Ma quanto è l'amplificatore? A tu, e me, visto che hai quello schema. E a tu professore, pare. L'ho visto già, ha fatto bene, caspita. Quindi dovrebbe funzionare bene così, perché ti riesci a accordare l'antenna e tutto. Ah no, anche il disegnino ha fatto bene proprio. Sì, già va bene, infatti ce l'ho sempre conservato quello schemino. Cappa. Adesso mi sposto un po' che devo fare una cosa, magari se ci siete dopo riprendo, va. Ehi.